trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Proxy Bar, benvenuta Daniela Apollonio. Ciao Antonio, buonasera. Come andiamo? È un'aria un po' sonnacchiosa? Stanca? Uggiosa. Ah, uggiosa. Uggiosa come il tempo che ci sarà il prossimo weekend. Sei uno di quelli che si è visto che adesso ci sono le previsioni fino a 6 giorni. Sì, ho visto. Ma ci azzeccheranno? No. No, vieni, sempre. Tanto per essere, tanto per verificare il tuo grado di pessimismo, questa sera era un po' un termometro. Non sono pessimista, sono ottimista. Bene, oggi parliamo di buzz marketing. Il buzz marketing possiamo definirlo come qualche cosa che rappresenta le persone. Da che mondo è mondo, le persone hanno sempre dialogato tra loro, ovviamente, e rimbalzato vari messaggi di comunicazione. Si parla spesso di buzz marketing riferito a internet e alla rete proprio perché le nuove tecnologie digitali permettono più facilmente di amplificare e divulgare i messaggi. Il marketing legato al buzz è quello che riguarda le aziende che cercano in qualche modo di influenzare, di animare, di stimolare questo tipo di comunicazione appunto, che rimbalza da persona a persona, che si amplifica da persona a persona, cercando ovviamente di enfatizzare tutti i lati positivi o le informazioni che riguardano i singoli prodotti o servizi delle aziende. Allora, la voce che abbiamo sentito è quella di Mauro Lupi, presidente di Ad Maiora, che è una delle principali agenzie di web marketing e advertising online. Abbiamo ascoltato una definizione pseudo-accademica, anche se è più la pratica ormai a definire, no, questi termini, però molto molto precisa e puntuale quella di Mauro Lupi, che salutiamo. Intanto diamo il benvenuto, dovrebbe essere in linea, a Francesco Dorazio. Ciao Francesco. Ciao Antonio, eccomi qua, ciao a tutti. Ciao Francesco. Allora, Francesco, ciao. Dorazio è collegato... Guarda, ero attentivo prima, non sapevo ci fosse un'altra persona in studio. È collegato in via Skype, magari ci sarà qualche brevissimo tempo di latenza, ma mi sembra che per il momento vada tutto bene. Si trova a Londra, è il creatore di questo social network di buzz marketing che si chiama, e qui viene il difficile, Zub.it, ZZUB.it, corretto Francesco? Correttissimo, Zub.it poi in realtà non è altro che buzz. È buzz alla rovescia, esatto, sarà contento Attilio che conduce una trasmissione su questa, radio che si chiama Buzz. Allora, domanda di rito per rompere il ghiaccio, che tempo fa a Londra? Che tempo vuoi che faccia? Ecco. Solito tempo fantastico, per cui si lavora molto bene, devo dire, ottimo per lavorare. Ottimo per lavorare. Come vivono questi imprenditori del web 2.0 a Londra? Cioè, è vero che vi frequentate sempre tra italiani, tra Chelsea, Fulham e i più ricchi magari a Knightsbridge? Ma guarda, inevitabilmente ho diversi amici italiani che stanno qui a Londra, ma i meeting, diciamo, per amor di patria non ci vado abbastanza spesso. Frequento parecchi che lavorano nel web qui a Londra, ci sono una serie di occasioni per incontrarsi, ma sono occasioni abbastanza slegate dall'appartenenza, diciamo, geografica, sono, che ne so, c'è il mini bar che è uno dei, una specie di mini bar camp che mette insieme una volta al mese tutti quelli che si occupano di startup web e che presentano il loro progetto, il loro business model, si incontrano con giornalisti, venture capitalist e altro. È una scena abbastanza viva adesso a Londra, è molto divertente, bello, interessante stare qua adesso perché c'è una nuova andata di investimenti sul web e di idee che prendono vita, quindi è un buon momento per stringere amicizie, contatti, alleanze. Perfetto, beh, quindi diciamo c'è una community verticale, potremmo dire. Io ti ho fatto questa domanda perché le volte che è capitato a me di partecipare a qualche cena a Londra tra italiani, si finiva sempre per parlare fino a mezzanotte di titoli da comprare, titoli da vendere, ed era tristissimo. Oddio, no. Era no. Veramente triste. È un'altra scena, almeno comunque sono finito in un'altra scena totalmente diversa, cioè sono in parte i geek, in parte gente che fa ricerca, in parte gente che è semplicemente interessata a sperimentare idee nuove, quindi sono più, diciamo, una nuova generazione di imprenditori fai da te, cioè non sono imprenditori in realtà, sono persone che vengono da background totalmente diversi, anche il mio non è un background da imprenditoria o un background di business o economico, sono cose che sto imparando per riuscire a gestire una serie di idee che sono state strutturate poi come operazioni imprenditoriali inevitabilmente per poter essere sostenibili, ma di fatto io e tutti gli altri che conosco lavorano nel web, non veniamo assolutamente da un percorso di studio di business. Benissimo. Allora, abbiamo deciso di strutturare questa breve intervista in due parti. La prima con le domande facili, quasi in ginocchio, che ti faremo. Poi dopo un brano musicale che serve per darti veramente l'illusione di trovarti tra amici, poi ti faremo invece le domande cattive e qui insomma c'è Daniela che già freme. Okay. Vuoi raccontarci tra quelle facili, raccontaci per bene che cos'è Zab.it? Allora, Zab.it è innanzitutto un social network, ma è un social network che non ha un orientamento, è un topic generale tipo Facebook o tipo MySpace, è un social network in un certo senso verticale, cioè un social network che si occupa di una tematica specifica e cui le persone si iscrivono per una ragione particolare. La ragione particolare è che ci si iscrive a questo social network perché è un luogo in cui si riesce a entrare in contatto con una serie di realtà, brand, imprese, aziende che stanno producendo e promuovendo nuove cose, nuovi prodotti, nuovi servizi e che sono interessati a entrare in contatto con tra virgolette gli early adopters o comunque sì, persone che sono interessate a sapere prima di altri che cosa sta succedendo e provarlo in anteprima rispetto al lancio sul mercato. Nella maggior parte dei casi non è nemmeno sempre così facile che avvenga questo allineamento planetario, diciamo. Insomma, le persone si iscrivono a questo sito per provare nuovi prodotti e per raccontare la loro opinione poi una volta che l'hanno provati alle persone che conoscono. L'idea è quella di costruire una comunicazione sulle nuove cose che vengono lanciate collaborando direttamente con le persone che ne hanno fatto esperienza e con le persone che sono già interessate a quel tipo di prodotto o di servizio in partenza o a quel brand. Ecco, faccio un esempio di una campagna su Zab spiegandoci i vari passi e esattamente come funziona la campagna. Non so, per esempio abbiamo lanciato una collaborazione con un editore romano che si chiama Castelvecchi, Alberto Castelvecchi, e Castelvecchi doveva promuovere due libri che erano in uscita a novembre e sono tra l'altro due campagne che sono ancora attive perché sui libri abbiamo deciso di dare un tempo un po' più lungo rispetto alle campagne normali tipo quella Vodafone che si è appena conclusa. Nel caso per esempio di un libro per Castelvecchi, era un libro di Alejandro Jodorowsky che era una raccolta di testi che lui aveva scritto per questa rubrica che curava su XL di Repubblica, e la campagna funziona in questo modo: l'editore viene da te, ti propone l'oggetto su cui vorrebbe che fosse creata, che fosse attivata una campagna di passaparola. Noi creiamo una comunicazione rispetto a quell'oggetto, scegliamo una serie di persone insieme alla community, cerchiamo di capire chi può essere interessato a provare a leggere quel libro in anteprima, perché è già interessato a quei temi, perché è interessato a quell'editore, perché sostanzialmente nelle sue corde. Invitiamo quelle persone a partecipare a questa campagna, gli facciamo provare in anteprima il prodotto, il servizio, in questo caso il libro, e in cambio poi le persone collaborano alla promozione di comunicazione su quel libro. Fondamentalmente raccontano alle persone che conoscono qual è la loro opinione del libro che hanno provato. e poi però devono offrire un feedback su quello che hanno fatto come passato. Sì, ci sono due tipi di cose che possono fare. Una è, diciamo, un'operazione che si fa fondamentalmente anche all'inizio della campagna, cioè appena una persona si iscrive alla campagna di passaparola ha la possibilità di lasciare un feedback, cioè di dire che cosa pensa della campagna, che cosa pensa dell'oggetto che è della pubblico campagna. È pubblico sul sito il feedback, non è privato. Ci sono due tipi di feedback: un feedback è pubblico e fa parte, va a finire, diciamo, nel forum della campagna. Ogni campagna ha un luogo di discussione che è pubblico e nel quale le persone che stanno partecipando a quella campagna si scambiano opinioni sulla campagna e sull'oggetto della campagna. E poi ci sono invece una serie di feedback che arrivano direttamente a noi, che sono quelli che giriamo poi alle persone che ci hanno commissionato la campagna. Certo. Diciamo un po' più strategici. Come? Un po' più strategici i feedback privati che date alle aziende. Sostanzialmente sono sempre più o meno le cose che le persone dicono anche nella parte pubblica, ma nella parte pubblica si scatena anche una discussione, quindi sono proprio diverse le dinamiche, le tematiche che escono fuori, perché dalle conversazioni viene fuori tutto quello che non viene fuori nel rapporto uno a uno, che invece è quello che c'è nel feedback. Però il feedback ci interessa anche come elemento a parte, perché è un momento di riflessione autonomo che lo Zabber, cioè la persona iscritta alla community Zab, si prende per riflettere sulla cosa che ha appena provato. E quindi per noi e per il brand che partecipa alla campagna di passaparola è fondamentale che ci sia questo tipo di coinvolgimento, perché è un'opinione diretta. È come in un certo senso avere una specie di focus group permanente con persone competenti che sanno tutto quanto di te e del prodotto di cui stai parlando e che quindi ti possono dare un'opinione valida. Ma è bello, perché con il fatto che ti stiamo telefonando via Skype sentiamo dei suoni e sembra che tu sia nella vasca da bagno. Comunque, a parte questo, adesso scusa la domanda maliziosa, ovviamente i feedback possono anche essere negativi, corretto? Certo, i feedback, come anche i report di passaparola, possono essere negativi. Le due azioni di cui parlavo sono appunto una l'azione di feedback, l'altra l'azione di reporting sul passaparola, cioè quando io consiglio a un mio amico il libro che ho appena letto perché penso che gli possa interessare, poi vado su Zab e faccio un report di passaparola e racconto a Zab a chi l'ho detto, che cosa gli ho detto e qual era la situazione, perché ci interessa proprio capire il modo in cui è avvenuto il passaparola e ricevere una serie di dettagli su quello che è stata l'azione di passaparola. Il feedback e il passaparola può ovviamente essere negativo, ma in un certo senso è il sale di tutto il processo. Nel caso del feedback, per esempio, il feedback negativo aiuta il brand ad agire sul prodotto nel caso in cui stia facendo una campagna di test, perché non è detto che la campagna e la collaborazione con Zab possa portare solo a campagne di passaparola. Molto spesso quello che capita è anche un'attivazione di una campagna di testing di un nuovo prodotto, quindi il feedback negativo serve ad evidenziare degli elementi critici che in questo modo possono essere risolti in anticipo. L'azienda, per esempio, può intervenire sulla comunicazione fatta sul prodotto una volta che il feedback negativo è una delle cose più preziose in realtà. L'abbiamo fatto per esempio per il lancio di un paio di siti e tutti i feedback sono stati fondamentali, perché hanno dato dei consigli fondamentali per chi gestiva quei siti, per capire in che direzione andare con la comunicazione, con l'interfaccia, con i contenuti del sito. Ecco, per chiudere con la spiegazione di come funzionano le campagne: man mano che gli utenti pubblicano feedback e report accumulano dei punti, corretto? Yes. Come funziona? Ci sono tre tipi di punti. La questione dei punti è un po' più complessa di quanto non sembri dall'esterno, cioè la questione dei punti serve semplicemente a noi per cercare di capire esattamente dare il peso giusto alle persone che abbiamo davanti. Cioè, ci sono campagne di tipo diverso che richiedono un investimento diverso da parte dell'azienda, e quindi ogni volta per noi il compito difficile è riuscire a mettere in contatto le persone giuste con il brand giusto e con il prodotto giusto. E il punteggio che noi assegniamo a ogni persona è in un certo senso uno degli strumenti attraverso il quale noi riusciamo a individuare le persone giuste per ogni campagna. I punti sono di tipo diverso però, cioè ci sono punti che riguardano il networking, punti che vengono assegnati per i report di passaparola e punti invece che riguardano l'esperienza. Sono i punti networking fondamentalmente sono punti che si guadagnano invitando le persone giuste ad unirsi alla community, giuste perché i punti networking si guadagnano solo quando si riesce a invitare una persona che è effettivamente interessata a partecipare a quella community e che quindi poi si iscrive e partecipa alla community. I punti reporting sono punti che si guadagnano in base alla qualità dei report di passaparola che si fanno, in base a quanto l'azione di passaparola è stata dettagliata, sentita, comunicata bene, raccontata bene poi a Zab, si guadagnano più o meno punti. E i punti esperienza invece fotografano un po' il grado di partecipazione che la persona ha sulla community. Ci servivano questi tre parametri diversi perché ovviamente uno da solo non funziona rispetto agli altri, cioè se noi avessimo dato solo punti networking si sarebbe creato un fenomeno più di spam che non di passaparola, per cui la gente avrebbe pensato di poter guadagnare punti facilmente invitando a destra a manca persone che magari non sono interessate neanche alla community. I punti reporting invece fotografano solo la qualità del passaparola che si fa, quindi ci servono per premiare poi le persone che effettivamente stanno partecipando nel modo migliore alla community. Senti, ma questi punti a che cosa servono poi all'utente finale? Noi stiamo praticamente ridisegnando il funzionamento e il meccanismo del sito ogni giorno, perché come sapete non siamo andati in beta privato, ma anche quando poi si va in beta pubblico comunque il sito è in perenne sviluppo, e per ora i punti servono a due cose: a partecipare a delle campagne che richiedono un punteggio più alto perché richiedono un profilo particolare di persona per partecipare in base al tipo di prodotto che viene promosso, oppure dei premi che non posso ancora anticipare in realtà, perché stiamo proprio in questi giorni definendo due tappe fondamentali in due momenti dell'anno diverso che vengono assegnati agli Zabber che hanno partecipato nel modo più creativo alle attività della community. Bene, allora mentre tu raccogli finalmente questa benedetta saponetta che non riesci a prendere, noi facciamo una piccola pausa e ci sentiamo tra qualche minuto proprio per le domande cattive che ti ho anticipato. Bene, bene. Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Thank you. Chicago. Allora, torniamo in diretta e proviamo a metterci dal punto di vista delle aziende. Francesco, mi senti? Sì. Benissimo. Allora, volevo chiederti quanto costa fare una campagna su Zab dal punto di vista delle aziende e come si misura il ritorno di questo investimento. Ah, apriamo praticamente due mondi infiniti. Pensavo a domande molto più cattive. Per quanto riguarda il costo, non c'è un costo fisso, perché una campagna di Zab può costare zero, come può costare tot mila euro. Una cosa che dipende da diversi fattori: dipende innanzitutto da chi è il brand, dipende da quante persone sono coinvolte nella campagna, cioè quanti sono gli Zabber che devono essere invitati a partecipare alla campagna, dipende se c'è un prodotto che deve essere spedito a casa e quindi ci sono dei costi di spedizione che inevitabilmente vanno coperti, ci sono poi dei costi logistici che derivano dalla necessità di gestire queste spedizioni e il rapporto poi con... cioè ci sono un milione di azioni che vengono svolte ogni volta per mettere in piedi una campagna, più poi c'è tutta la parte di lavoro sul web, la parte di comunicazione, la parte di creatività sulle campagne. Insomma, i costi variano tantissimo da caso a caso, non c'è un soprattutto ma anche nel caso di beni scusami Francesco, nel caso di beni immateriali che non prevedono costi di spedizione, costa di meno ovviamente. Certo, quella è una voce fondamentale, il costo di spedizione per una campagna. Di quanti Zuber è composta la community al momento? Adesso siamo quasi intorno ai 5.000. Per ogni campagna quante persone chiami solitamente? Non siamo mai scesi finora sotto le 300 persone per ogni campagna. Però dipende moltissimo anche dal cliente, cioè il cliente decide quante persone vuole coinvolgere sulla campagna in base a quanti prodotti può mettere a disposizione della community o in base a quanto può investire nell'spedizione. L'altro giorno, mentre io ero sulla pontina lanciato a 160, ti ho telefonato per avere qualche notizia sul meccanismo degli advocates, cioè i cosiddetti influenti. Cioè, quando mi parli di 300 persone coinvolte nella campagna che fanno passaparola, voi li considerate un target, come dire, che sta in mezzo, quindi che deve influire su un ulteriore target, oppure come il target finale? Entrambe le cose, però ci sono due grandi scuole di pensiero, ci sono due scuole di pensiero sul marketing del passaparola. La prima sostiene che bisogna coinvolgere soprattutto appunto gli influencer, cioè le persone che hanno una rete di contatti particolarmente sviluppata e una propensione al passaparola particolarmente fluente, diciamo i PR nati. A un'altra scuola pensa invece che sia fondamentale coinvolgere tutte le persone e strutturare le campagne poi a seconda delle esigenze diverse. Noi apparteniamo più come modello al secondo orientamento, cioè non ci interessa andare a coinvolgere a prescindere solo le persone che hanno già un tipo di profilo sociale da influencer, anche perché poi quel tipo di persona in realtà in un certo senso ha quel ruolo sempre, mentre invece a noi interessa avere a che fare con la persona normale che ha il suo network normale di persone e di amici e che parla delle cose che gli interessano e che esprime un'opinione pulita su quel tipo di cose. Cioè non mi interessa avere il PR professionista nella community, se capita il PR professionista bene, ma è più che altro una cosa che non controlliamo noi e sicuramente una cosa che non andiamo a cercare, perché ci interessa espressamente attivare il meccanismo virtuoso di esperienza diretta e espressione dell'opinione onesta sull'esperienza fatta. Quindi poi a seconda del tipo di campagna, a seconda delle esigenze del cliente, noi possiamo decidere se indirizzare di più il passaparola online o offline, possiamo decidere se coinvolgere persone che hanno un profilo più simile a quello degli influencer o più persone che hanno un profilo legato a una produzione normale di determinati prodotti. Possiamo decidere di coinvolgere persone che hanno già una certa esperienza con quel tipo di prodotto o quel tipo di brand in particolare. È una configurazione che varia moltissimo da campagna a campagna. Bene, adesso ti propongo di ascoltare una registrazione che ho fatto stamattina a Più Blog al Palazzo dei Congressi, ho incontrato Mauro Lupi, che mi ha fatto una distinzione tra vari tipi, diciamo così, di marketing di ultima generazione sul web. Sì. Ma diciamo che mentre il buzz possiamo riferirlo legato alle, come dire, al passaparola più tradizionale, il viral è un pochettino più generico, cioè tutto quello che si propaga proprio per emulazione, anche per esempio da persona a persona, che si scambia, si amplifica man mano che passa di email in email o di messaggio in messaggio. Il tema del guerriglia molto spesso invece è qualcosa che con la rete non ci azzecca nulla, viene associato secondo me in modo improprio semplicemente perché è piuttosto nuovo e diciamo contemporaneo a quello che è il viral marketing online, però voglio dire, gli adesivi attaccati sui muri delle strade, per come la vedo io, ci azzeccano poco rispetto a quello che può essere un video che si divulga su YouTube, per capirci. Allora, Francesco, sei d'accordo con Mauro Lupi su questa distinzione? Purtroppo sono riuscito a connettermi solo adesso perché non sentivo. Hai perso la linea. Va bene, diciamo che lui ha distinto. Sono arrivato sul punto in cui parlava di guerriglia marketing e del fatto che non riguarda, che può molto spesso non riguardare la rete. Ecco, credo che tu sia d'accordo, no? Si fa un po' di confusione, mi sembra. Assolutamente, quello è il problema più grande, cioè riuscire a spiegare che il marketing del passaparola non è marketing virale, che non è guerriglia marketing, è una delle cose più... è una delle cose con cui mi scontro tutti i giorni, cioè è totalmente un'altra cosa. Ecco, infatti questo mi permette di introdurre la domanda successiva: come reagiscono i responsabili marketing delle imprese italiane, per esempio, rispetto alla possibilità di fare queste campagne? Quanto sono preparati? Non ci sarà mica anche qui un gap generazionale da scontare? Assolutamente. Cioè, ma c'è un gap generazionale che riguarda tutto quello che è fondamentalmente la misurazione dell'effetto di una campagna comunicazione, cioè la generazione storica del marketing del corporate tradizionale è abituata a ragionare in termini di contatti, accessi, passaggi, e non è assolutamente abituata a ragionare su una misura più sfuggente che è quella della visibilità, soprattutto sul web, e quindi in un certo senso da un lato tentano di applicare vecchie logiche a strumenti nuovi, e dall'altro una delle cose più difficili è far capire il potenziale di un tipo di comunicazione del genere. Ed ecco, ho spiegato il motivo per il quale tu stai a Londra e non stai a Roma o a Milano e lavori con aziende straniere e con utenti. Pronto? Ci sì, sei? Sì, ah, ecco. Sì. Sentiamo strani rumori qui. Sì, di sicuro allora, c'è una... Non sono mai stato filo patria a priori, però in questo caso mi sento comunque di dover difendere un minimo anche lo stellone, il corporate italiano, nel senso che tutta la questione del marketing del passaparola è dibattuta a livello internazionale. È ovvio che nei luoghi in cui c'è un'apertura mentale a priori rispetto a nuove modalità, nuove strategie di comunicazione, è più facile far capire il potenziale di una cosa del genere. Nei luoghi in cui invece si tende un po' a conservare, a tenere le cose come stanno per paura di sconvolgere equilibri, anche molto spesso legati a equilibri poi interni, a piccoli gruppi all'interno delle aziende, non si parla di grandi disegni anti-innovazione. Quando c'è questa mentalità è un po' più complicato riuscire a fare breccia. Devo dire che c'è molto interesse da parte delle aziende rispetto a questo tipo di comunicazione, soprattutto perché le aziende si sono trovate da un momento all'altro travolte da quello che è successo sul web, cioè il fatto di essere esposti sul web a milioni di conversazioni che ti fanno la radiografia ogni giorno e ti in qualche modo obbliga a scendere in campo a un livello paritario e a saper attivare conversazioni con gli utenti che non sono più consumatori e basta, o destinatari finali di un processo che tu attivi in modo top down, ma sono persone che collaborano con te alla definizione di quello che stai facendo. Va bene, noi ti ringraziamo per questa esauriente lezione, direi, a questo punto sul buzz marketing, perché credo che... Ma io volevo le domande cattive. No, guarda, c'era la domanda cattiva, la domanda cattiva c'è, però è cattiva cattiva, nel senso, quando ho visto... Mettiti l'elmetto, perché Daniela la vedo carica. Vai, Daniela. Quando ho visto il tuo progetto mi ha ricordato molto, molto i Beans. Non so se nel 98-99 tu eri già online e hai aderito a quel... Te li ricordi? È diverso, perché qui c'è un tipo di coinvolgimento che è assolutamente volontario, che è assolutamente legato all'opinione personale di... Anche i Beans era così, comunque. Tu esprimevi anche con i Beans, tu esprimevi delle opinioni e venivi, guadagnavi dei fagiolini con i quali ricevevi dei premi. Sì, però in quel caso non provavi il prodotto. Cioè, tu in quel caso partecipavi se... facevi delle recensioni, praticamente. Esprimevi comunque la tua opinione e ne parlavi bene o male. Ma la grande differenza... Questo tu lo puoi fare sul web in qualsiasi sito, in realtà. Cioè, qualunque sito che raccolga un gruppo di utenti intorno a un topic particolare può generare una discussione del genere. I thread nei forum lo fanno per qualsiasi tipo di prodotto. Quello che succede con il buzz marketing, in particolare con il modello nostro che ha fuso il buzz marketing con l'idea del social network, è che hai una conoscenza approfondita di una serie di persone che inviti a partecipare a delle campagne, a entrare in un rapporto diretto con un brand, e in seguito al quale queste persone provano fisicamente qualcosa in anteprima e gratuitamente, e esprimono poi delle opinioni a ragion veduta. Quindi, in un certo senso, appunto, è come estendere l'idea del focus group a un periodo di tempo molto più ampio, a un numero di persone molto più ampio, persone che però non vengono più scelte a caso, come avviene molto spesso nel 90% delle selezioni delle persone che partecipano ai focus group, ma che vengono scelte in base a una loro competenza e interesse nell'oggetto su cui si sta facendo passaparola. Quindi la profilazione come chiave, direi. Sì, appunto, la conoscenza, perché profilazione in realtà è un termine che evoca una conoscenza abbastanza meccanica e quantitativa delle persone, mentre invece l'aver messo in piedi un social network è proprio è stato legato alla necessità di voler conoscere a livello qualitativo le persone con cui collaboravamo, cioè cercare di sviluppare un rapporto sociale più che semplicemente un rapporto legato alla risposta delle domande in un questionario. È chiaro che fai anche dei questionari per conoscere meglio e avere dei dati quantitativi sociodemografici, per esempio, su una serie di persone con cui stai collaborando, però la ricchezza che ti dà l'interazione sociale orizzontale non te la dà nessun questionario, e per quello il social network è fondamentale. Per chiudere, toglimi una curiosità, Francesco, sul vostro Zab c'è un bellissimo gioco che si chiama Brand contro Brand. Io sì, proprio per puro divertimento ogni tanto vado lì e mi trovo di fronte due brand più o meno famosi e clicco su uno e poi alla fine ci sono, diciamo, dei ritorni. No? Allora, vincitori perdenti, sono degli showdown, degli scontri, come nel wrestling, sì, diciamo. Allora, quando uno sceglie uno dei due brand, la molla dovrebbe essere la notorietà spontanea del brand? No. Scusa, allora, la notorietà indotta, scusami. No, no, potrebbe anche essere la notorietà spontanea del brand, ma in realtà ovviamente te ne sarai accorto, i brand che si confrontano non sono mai brand, o comunque nel 99% dei casi sono brand che non hanno nulla a che fare uno con l'altro. Sì. Che è una cosa che molte persone non riescono a capire, dicono: ma perché mai dovreste confrontare? Daniela me l'ha chiesto 10 minuti fa, ma che c'entra IKEA con la Coca-Cola? Esatto. La teoria di fondo dietro a tutto quello è che rispetto a ogni brand noi abbiamo un tipo di attaccamento che non è razionale, che non riguarda il prodotto o servizio del brand, o comunque che prescinde dal prodotto o servizio, certo, del brand, e che è un attaccamento di tipo emotivo. Allora, far scontrare due brand che non hanno nulla a che vedere a livello razionale, funzionale e strumentale tra di loro, mi fa emergere quel tipo di coinvolgimento esclusivamente simbolico e emotivo che io ho rispetto al brand. Francesco, cioè, io voterò sempre Apple rispetto a Dell, ma non perché penso che al 100% che tutto quello che produce la Apple sia sempre meglio di tutto quello che produce, ma in questo caso poi è un esempio stupido perché Apple e Dell sono dello stesso tipo, per esempio Apple e IBM in Italia Apple e British Telecom. Quello che mi permette di fare questa opposizione tra brand che non hanno nulla a che vedere tra loro direttamente e far emergere esattamente solo quella parte di coinvolgimento emotivo che io ho rispetto a quel brand in particolare, e quindi è una fotografia interessante proprio a livello antropologico di quali sono i brand più amati, non i brand più visibili, più famosi o più di successo. Francesco, scusami, una domanda, ma i brand che voi selezionate sono comunque aziende che pagano per essere messe una contro l'altra, oppure parli della guerra? Ah no, vabbè, se fossi sarei miliardario se le aziende capissero che è interessante per loro essere visibili una cosa del genere, no? È generato dagli utenti, cioè gli utenti postano sul sito i brand che gli interessano. Infatti, se ci fate caso, ci sono un sacco di brand anche minuscoli che comunque lasciamo sul sito perché poi è diciamo il ranking sociale che decide la loro visibilità. Fondamentalmente chi posta il suo micro brand per promuoverlo a fianco di brand come Apple eccetera, e poi si becca la batosta perché la gente quando poi trova Apple e il micro brand vota Apple. Sì, intanto gli stai facendo pubblicità al micro brand comunque, eh? Sì, gli stai comunque facendo pubblicità al micro brand, però appunto l'idea era più quella di, siccome il concept del sito è tutto basato sull'idea della comunicazione grassroots sui brand, cioè della comunicazione totalmente bottom up che nasce dall'interazione sociale, l'idea che gli Zabber siano diciamo degli avvocati di brand diversi, cioè ognuno ha il suo brand preferito, ognuno ha la sua inclinazione particolare in una certa direzione, è questo il tipo di struttura che vogliamo dare alla community, cioè far partecipare alle campagne le persone che sono già parte in termini emotivi, in termini razionali, qualsiasi termine, che sono già parte di una squadra di brand, diciamo, e la guerra dei brand serviva a far venire fuori esattamente quella struttura. Benissimo, allora noi ti ringraziamo per il tuo tempo, ti lasciamo ai tuoi fumi di Londra e al tuo clima caraibico che ti aspetta e alla tua cena molto importante di stasera. Dai, povero, ma dai. No, no, io so, ho qualche insight sulla serata di Francesco. Grazie ancora, ci auguriamo di averti ancora i nostri microfoni. Grazie. A presto. Grazie Ciao. Mille, a presto. Thank you. Radio Imago. Sei su Radio Imago. Radio Imago. Entra nel sogno, ascolta l'immagine. Bene, la lunga chiacchierata con il nostro emigrante di lusso, lo vogliamo chiamare come... Vabbè, è una bellissima esperienza, credo, per un ragazzo che, insomma, non credo che abbia neanche 30 anni e che sta scrivendo una bella pagina di Web 2.0, insegnando l'approccio italiano a questi signori con la bombetta, che me li immagino insomma nelle riunioni, che con le loro palline antistress. Ho frequentato un po' anche l'ambiente di business di Londra e lo trovo assolutamente deprimente. Ma comunque, insomma, queste sono valutazioni personali. Dipende da in che ambito sei stato. Io stavo nella musica e stavo benissimo. Esatto, infatti io, sempre dipende anche un po' proprio dagli ambienti, al di là delle nazionalità. Dunque, abbiamo un guru anche questa sera, un guru, diciamo, molto importante, perché si tratta di Stefano Venturi, l'amministratore delegato di Cisco Systems Italia, stavo per dire Cisco come la squadra di calcio, quella di Licanio. che la nostra Livia Iacolare, la nostra in realtà è di Intruders TV, ha intervistato a Milano dopo questo evento, questa bellissima cena lunga, che è un evento dove si sono incontrate le aziende. Cosa significa cena lunga? Perché era la cena dopo la presentazione di Chris Anderson, il chief editor di Wired, l'inventore del concetto di coda lunga, che un giorno ti spiegherò, non scherzo, lo sai benissimo che cos'è la coda lunga. Insomma, gli amici di Intruders hanno intervistato Stefano Venturi sul modo in cui le aziende, che sono sul web direi da parecchi anni, fin dall'inizio, stanno trasferendo tutte le loro applicazioni in modo da permettere, vabbè, poi lo spiegherà meglio Stefano Venturi, ma non voglio, cioè, devo farlo io il guru, cioè scusa, ce sto l'abbiamo, facendo, ce l'abbiamo, mandiamolo in onda. Va. Guru Meditation. Guru Meditation. Guru Meditation. Prima di internet, fare imprenditoria voleva dire prima di tutto, oltre che mettere in piedi l'impresa, andare a cercare informazioni, quindi organizzarsi per trovare informazioni, e si faceva tanta fatica perché non si trovavano, quelle che si trovavano erano obsolete, perché ormai erano vecchie. E comunque era una continua rincorsa alle informazioni. L'altro punto era anche i contatti, era difficile trovarli, era costoso generare contatti, andare al di fuori del territorio dove l'impresa era locata. Poi è arrivata internet e la prima ondata che ha portato internet è stata la disintermediazione. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che prima di tutto informazioni che prima a me, piccola impresa, costava tantissimo trovare, mi costava tante risorse, comunque non le trovavo del tutto, quelle che trovavo erano obsolete, finalmente le avevo immediatamente. L'altra cosa è, grazie a internet mi è stato più facile vendere e soprattutto comprare, perché in internet tipicamente nella prima ondata si è riusciti a vendere alcune cose a prezzi più alti, a comprare a prezzi più bassi, comprare a prezzi sempre più convenienti. Inoltre internet ha abilitato nuovi tipi di business, quindi è nata una nuova imprenditoria. E poi infine c'è questa fase che stiamo vivendo adesso, che si proietta verso il futuro, che è veramente entusiasmante, che è quella del web 2.0, o del social network, o della business collaboration. Che cosa vuol dire? Vuol dire che oggi la rete mi dà la possibilità di operare in maniera interattiva, real time, con entità che sono lontane da me, che possono essere i miei clienti, ma che possono essere anche pezzi dell'azienda che io ho in giro. Quindi posso collaborare, creare dei prodotti usando intelligenza sparsa, posso usare i miei clienti per disegnare e creare il prodotto, ma soprattutto grazie al concetto di social network io posso aggiungere valore al mio prodotto creando delle comunità che di interesse, alle quali io posso vendere alcune particolarità dei miei prodotti, posso trovarmi delle nicchie che sono estese come il globo. Quindi io direi gli scenari sono veramente immensi, siamo in una fase entusiasmante, probabilmente ce ne saranno altre. Quindi io credo che quando si parla del mondo piatto è veramente così e possiamo davvero guardare al futuro come una cosa che ci darà tantissime opportunità dal punto di vista di essere imprenditori. Cisco in particolare da sempre ha lottato e sta lavorando per portare il più possibile le applicazioni lontano dai desktop, lontano dai computer sparsi nella rete, ma a bordo della rete. Perché vogliamo fare questo? Per fare in modo che da qualsiasi tipo di oggetto si possa accedere alla rete, alle applicazioni e ai contenuti, quindi non solo contenuti ma anche applicazioni, in modo ubiquo, con oggetti di tipo diverso. E quindi questo facilita la mobilità, facilita un sacco di fruizioni della rete che prima non erano possibili, quindi aiuta l'azienda in movimento. Ascolto questi guru e sorrido. Parlano di queste aziende italiane, di queste soluzioni innovativissime, poi guardi lo scenario dei siti internet e dici non ci siamo ancora. E ti metti le mani nei capelli. Senti, a proposito di mani nei capelli, che cosa è successo oggi? No, ma niente, sono stato alla prima giornata di Più Blog, c'era un dibattito al quale ero stato invitato sul tema blog e media, marketing e informazione, dove ho incontrato Mauro Lupi, che avete sentito prima, personaggi importanti come per esempio il profeta della blog TV Bruno Pellegrini, poi c'era Giampaolo Rossi, direttore di RaiNet, che sta facendo un ottimo lavoro per, diciamo così, avvicinare il servizio pubblico ai nuovi media. E devo dire che io sono convinto del fatto che il pubblico abbia un vantaggio rispetto al mainstream media privato, proprio perché non è così strozzato necessariamente dai modelli di business e può sperimentare di più. Lo dimostra quello che hanno fatto BBC, NPR. Non mi parlare della Rai, perché Radio la Rai non ha ancora fatto nulla. Intanto la Rai ha un canale suo ufficiale su YouTube, è stata la prima. Gli altri sono venuti dopo in Italia, quindi attenzione a denigrare la Rai. Io ho buone speranze, naturalmente, considerato tutti i vincoli. Attenzione, io non è che la denigro. Stavo nel 97 lavorando in Rai. Il 97 era la preistoria, il web 0.5 per quanto mi riguarda. C'è stata una discussione vivace tra me e anche Antonio Pascotto, che è un personaggio molto più importante di me perché è il vice caporedattore del TG4 e difendeva, diciamo così, i media tradizionali, perché io mi ero forse un po' azzardato nel dire che in Italia i media tradizionali hanno paura sostanzialmente dei nuovi media, semplicemente perché non possono opporre quella tipica etica, professionalità e credibilità che dovrebbero caratterizzare, no, i giornali, la radio e la televisione. E potevano reagire tutti. In quel panel, guarda caso, si è alzato il caporedattore del TG4, evidentemente aveva la coda lunga di paglia, se mi permetti, e ha cominciato a dire appunto che secondo lui anche i blog invece sono che lui non è molto sicuro che il blog, che i nuovi media in generale siano più democratici dei vecchi media. Diciamo meno di parte. Non commentiamo, naturalmente, comunque lascio il giudizio ai nostri ascoltatori su questo tema. Comunque è una mattinata vivace e interessante, come spero vivace e interessante sia stata questa rubrica. Non sei stata cattiva come al solito, Daniela. Ti ho detto, sono uggiosa oggi. Vabbè, allora ci prepariamo per un rush finale in vista della pausa natalizia. Ci sarà una breve pausa anche per Proxy Bar. Giovedì prossimo avremo, io penso, un ospite importante, illustre, non vogliamo anticipare niente. E poi chiuderemo il 20 con un'altra puntata simpatica. Per il momento ci limitiamo a salutare tutti e ringraziare per l'ascolto. A presto. A giovedì prossimo. Mago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.